Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. Quelle prime giornate di Cosimo sugli alberi non avevano scopi o programmi, ma erano dominate soltanto dal desiderio di conoscere e possedere quel suo regno. Avrebbe voluto subito esplorarlo fino agli estremi confini, studiare tutte le possibilità che esso gli offriva, scoprirlo pianta per pianta e ramo per ramo. Dico avrebbe voluto, ma di fatto ce lo vedevamo di continuo ricapitare sulle nostre teste, con quell'aria indaffarata e rapidissima degli animali selvatici, che magari li si vedono anche fermi e acquattati, ma sempre come se fossero sul punto di balzar via. Perché tornava nel nostro parco? A vederlo volteggiare da un platano a un leccio, nel raggio del cannocchiale di nostra madre, si sarebbe detto che la forza che lo spingeva, la sua passione dominante, era pur sempre quella polemica con noi, il farci stare in pena o in rabbia. Dico noi, perché di me non ero ancora riuscito a capire cosa pensasse. Quando aveva bisogno di qualcosa, pareva che l'alleanza con me non potesse mai essere messa in dubbio. Altre volte mi passava sulla testa come nemmeno mi vedesse. Invece qui era soltanto di passaggio. Era il muro della magnolia che l'attirava, era là che lo vedevamo scomparire a tutte le ore, anche quando la ragazzina bionda non era certo ancora alzata o quando già lo stuolo di governante o zie doveva averla fatta ritirare. Nel giardino dei Dondariva i rami si protendevano come proboscidi di straordinari animali e dal suolo s'aprivano stelle di foglie seghettate dalla verde pelle di rettile e ondeggiavano gialli e lievi bambù con rumore di carta. Dall'albero più alto, Cosimo, nella smania di godere fino in fondo quel diverso verde e la diversa luce che ne traspariva e il diverso silenzio, si lasciava andare a testa in giù e il giardino capovolto diventava foresta, una foresta non della terra, un mondo nuovo. Allora appariva Viola. Cosimo la vedeva all'improvviso, già sull'altalena che si dava lo slancio, oppure sulla sella del cavallo nano, o sentiva levarsi dal fondo del giardino la cupa nota del corno da caccia. I marchesi Dondariva, delle scorribande della bambina, non s'erano mai dati pensiero. Finché lei andava a piedi, aveva tutte le zie dietro. Appena montava in sella, era libera come l'aria, perché le zie non andavano a cavallo e non potevano vedere dove andava. E poi la sua confidenza con quei vagabondi era un'idea troppo inconcepibile per poter sfiorare le loro teste. Ma di quel baroncino che si intrufolava su per i rami se ne erano subito accorte e stavano allerta, pur con una certa aria di superiore disdegno. Nostro padre, invece, dell'amarezza per la disobbedienza di Cosimo, ne faceva tutt'uno con la sua avversione per i Dondariva. Quasi volesse dar la colpa a loro, come se fossero loro che attiravano suo figlio nel loro giardino e lo ospitavano e lo incoraggiavano in quel gioco ribelle. Tutto a un tratto prese la decisione di fare una battuta per catturare Cosimo. E non nei nostri poderi, ma proprio mentre si trovava nel giardino dei Dondariva. Quasi a sottolineare questa intenzione aggressiva verso i nostri vicini, non vuole essere lui a guidare la battuta, a presentarsi di persona ai Dondariva, chiedendo che gli restituissero suo figlio, il che, per quanto ingiustificato, sarebbe stato un rapporto su di un piano dignitoso tra nobiluomini, ma ci mandò una truppa di servitori agli ordini del cavaliere avvocato Enea Silvio Carrega. Vennero questi servitori armati di scale e corde ai cancelli dei Dondariva. Il cavaliere avvocato, Insimarra e Fez, farfugliò se li lasciavano entrare tante scuse. Lì per lì i famigli dei Dondariva credettero che fossero venuti per certe potature di piante nostre che sporgevano nel loro. Poi, alle mezze parole che diceva il cavaliere, acchiappiam, guardando tra i rami a naso in su e facendo piccole corse tutte sghembe, domandarono: «Ma cos'è che v'è scappato? Un pappagallo?» «Il figlio, il primogenito, il rampollo», disse il cavaliere avvocato in fretta, e fatta appoggiare una scala a un castagno d'India, prese a salirci lui stesso. Tra i rami si vedeva seduto Cosimo, che dondolava le gambe come niente fosse. Viola, come niente fosse anche lei, se ne andava per vialetti a giocare col cerchio. I servitori porgevano al cavaliere avvocato delle corde, che chissà mai come manovrate, dovevano servire a catturare mio fratello. Ma Cosimo, prima che il cavaliere fosse giunto a metà scala, era già in cima a un'altra pianta. Il cavaliere fece spostare la scala, e così 4 o 5 volte, e ogni volta rovinava una aiuola, e Cosimo in 2 salti passava sull'albero vicino. Viola si vide tutto a un tratto circondata da zie e da vicezie, condotta in casa e chiusa dentro perché non assistesse a quel trambusto. Cosimo spezzò un ramo e, brandendolo con 2 mani, diede una bastonata fischiante nel vuoto. «Ma non potete andare nel vostro spazioso parco a continuare questa caccia, cari signori?» disse il marchese d'Ondariva, apparendo solennemente sulla gradinata della villa in vestaglia e papalina, il che lo rendeva stranamente simile al cavaliere avvocato. «Dico a voi, famiglia tutta Piovasco di Rondò!» E fece un largo gesto circolare che abbracciava il baroncino sull'albero, lo zio naturale, i servitori e di là dal muro tutto quel che v'era di nostro sotto il sole. A quel punto Enea Silvio Carrega cambiò tono. Trotterellò vicino al marchese e, come niente fosse, farfugliando, prese a parlargli dei giochi d'acqua della vasca lì davanti e di come gli era venuta l'idea di uno zampillo ben più alto e d'effetto che poteva anche servire, cambiando una rosetta, ad annaffiare i prati. Questa era una nuova prova di quanto imprevedibile e infida fosse l'indole del nostro zio naturale. Era stato mandato lì dal barone con un preciso incarico e con un'intenzione di ferma polemica nei riguardi dei vicini. Che c'entrava di mettersi a ciarlare amichevolmente col marchese come volesse ingraziarselo? Tanto più che queste qualità di conversatore il cavaliere avvocato le dimostrava soltanto quando gli tornava comodo e proprio le volte che si faceva affidamento sul suo carattere ritroso. E il bello fu che il marchese gli diede retta e gli fece domande, lo portò con sé a esaminare tutte le vasche e gli zampilli, vestiti uguale, entrambi con quelle palandrane lunghe lunghe, alti presso a poco uguale, che si poteva scambiarli, e dietro la gran truppa dei nostri famigli e loro, alcuni con scale sulle spalle, che non sapevano più cosa fare. Intanto Cosimo saltava indisturbato sugli alberi vicini alle finestre della villa, cercando di scoprire, oltre le tendine, la stanza dove avevano chiuso Viola. La scoperse finalmente e gettò una bacca contro l'impannata. S'aperse la finestra, apparve il viso della ragazzina bionda e disse: «Per colpa tua sono qui reclusa». Rinchiuse, tirò la tenda. Cosimo fu a un tratto disperato. Quando mio fratello era preso dalle sue furie, c'era davvero di che stare in ansia. Lo vedevamo correre, se la parola correre ha senso, tolta dalla superficie terrestre, riferita a un mondo di sostegni irregolari a diverse altezze con il mezzo il vuoto. E da un momento all'altro pareva che dovesse mancargli il piede e cadere, cosa che mai avvenne. Saltava, muoveva passi rapidissimi su di un ramo obliquo, s'appendeva e sollevava di scatto a un ramo superiore, e in 4 o 5 di questi precari zigzag era sparito. Dove andava? Quella volta corse e corse, dai lecci agli olivi, ai faggi, e fu nel bosco. Si fermò ansante. Sotto di lui si distendeva un prato, il vento basso vi muoveva un'onda, per i ciuffi fitti dell'erba, in un cangiare sfumature di verde. Volavano impalpabili piume dalle sfere di quei fiori detti soffioni. In mezzo c'era un pino isolato e irraggiungibile, con pigne oblunghe. I rampichini, rapidissimi uccelli color marrone picchiettato, si posavano sulle fronde fitte d'aghi, in punta, in posizioni sghembe, alcuni capovolti con la coda in su e il becco in basso, e beccavano bruchi e pinoli. Quel bisogno d'entrare in un elemento difficilmente possedibile che aveva spinto mio fratello a far sue le vie degli alberi, ora gli lavorava ancora dentro, mal soddisfatto, e gli comunicava la smania ad una penetrazione più minuta, ad un rapporto che lo legasse a ogni foglia e scaglia e piuma e frullo. Era quell'amore che ha l'uomo cacciatore per ciò che è vivo, e non sa esprimerlo altro che puntandoci il fucile. Cosimo ancora non lo sapeva riconoscere, e cercava di sfogarlo accanendosi nella sua esplorazione. Il bosco era fitto, impraticabile. Cosimo doveva aprirsi la strada a colpi di spadino e a poco dimenticava ogni sua smania, tutto preso dai problemi cui via via si trovava di fronte e da una paura, che non voleva riconoscere ma c'era, di star troppo allontanandosi dai luoghi familiari. Così, facendosi largo nel folto, giunse nel punto dove vide 2 occhi che lo fissavano, gialli, tra le foglie, dritto davanti a sé. Cosimo mise avanti lo spadino, scostò un ramo, lo lasciò ritornare piano al suo posto. Trasse un sospiro di sollievo, rise del timore provato. Aveva visto di chi erano quegli occhi gialli. Erano d'un gatto. L'immagine del gatto appena vista scostando il ramo restava nitida nella sua mente. E dopo un momento Cosimo era di nuovo tremante di paura, perché quel gatto, in tutto uguale a un gatto, era un gatto terribile, spaventoso, da mettersi a gridare al solo vederlo. Non si può dire cosa avesse di tanto spaventoso. Era una specie di soriano, più grosso di tutti i soriani. Ma questo non voleva dire niente. Era terribile nei baffi dritti come aculei d'istrice, nel soffio che si sentiva, quasi più con la vista che con l'udito, uscire di tra una doppia fila di denti affilati come uncini, negli orecchi che erano qualcosa di più che aguzzi, erano 2 fiamme di tensione, guernite d'una falsamente tenue peluria. nel pelo tutto ritto che gonfiava attorno al collo rattratto un collare biondo, e di lì si dipartivano le strie che fremevano sui fianchi, come carezzandosi da sé, nella coda ferma in una posa così naturale da parere insostenibile. A tutto questo che Cosimo aveva visto in un secondo dietro il ramo, subito lasciato tornare al proprio posto, s'aggiungeva quello che non aveva fatto in tempo a vedere, ma si immaginava. Il ciuffo esagerato di pelo che attorno alle zampe mascherava la forza lancinante degli unghielli, pronti a scagliarsi contro di lui. E quello che vedeva ancora, le iridi gialle che lo fissavano tra le foglie, ruotando intorno alla pupilla nera. E quello che sentiva, il bofonchio sempre più cupo e intenso. Tutto questo gli fece capire di trovarsi davanti al più feroce gatto selvatico del bosco. Tacevano tutti i cinguettii ed i frulli. Saltò il gatto selvatico, ma non contro il ragazzo, un salto quasi verticale che stupì Cosimo più che spaventarlo. Lo spavento venne dopo, vedendosi il felino su un ramo proprio sopra la sua testa. Era là, rattratto. Ne vedeva la pancia dal lungo pelo quasi bianco, le zampe tese con le unghie nel legno, mentre inarcava il dorso e faceva e si preparava certo a piombare su di lui. Cosimo, con un perfetto movimento, neppure ragionato, passò su di un ramo più basso. Fece il gatto selvatico e ad ognuno dei faceva un salto, uno in là, uno in qua, e si ritrovò sul ramo sopra Cosimo. Mio fratello ripeté la sua mossa, ma venne a trovarsi a cavalcioni del ramo più basso di quel faggio. Sotto, il salto fino a terra era di una certa altezza, ma non tanto che non fosse preferibile saltar giù, piuttosto che aspettare cosa avrebbe fatto la bestia appena avesse finito di emettere quello straziante suono tra il soffio e il gnaulio. Cosimo sollevò una gamba, quasi fosse per saltar giù. Ma come in lui si scontrassero due istinti, quello naturale di porsi in salvo e quello dell'ostinazione di non scendere a costo della vita, strinse nello stesso tempo le cosce e le ginocchia al ramo. Al gatto parve che fosse quello il momento di buttarsi, mentre il ragazzo era lì oscillante. Gli volò addosso in un arruffio di pelo, unghie irte e soffio. Cosimo non seppe far di meglio che chiudere gli occhi e avanzare lo spadino, una mossa da scemo, che il gatto facilmente evitò e gli fu sulla testa, sicuro di portarlo giù con sé, sotto le unghie. Un'artigliata prese Cosimo sulla guancia, ma invece di cadere, serrato come era al ramo coi ginocchi, s'allungò riverso lungo il ramo. Tutto il contrario di quel che si aspettava il gatto, il quale si trovò, sbalestrato di fianco, a cader lui. Volle trattenersi, piantare gli unghielli nel ramo, ed in quel guizzo girò su se stesso nell'aria. Un secondo, quanto bastò a Cosimo, in un improvviso slancio di vittoria, per avventargli contro un affondo nella pancia e infilarlo, gnaulante, allo spadino. Era salvo, lordo di sangue, con la bestia selvatica stecchita sullo spadino come su uno spiedo, e una guancia strappata da sotto l'occhio al mento da una triplice unghiata. Urlava di dolore e di vittoria e non capiva niente, si teneva stretto al ramo, alla spada, al cadavere di gatto, nel momento disperato di chi ha vinto la prima volta. Ed ora sa che strazio è vincere e sa che è ormai impegnato a continuare la via che ha scelto e non gli sarà dato lo scampo di chi fallisce. Così lo vidi arrivare per le piante, tutto insanguinato fin sul panciotto, il codino disfatto sotto il tricorno sformato, e reggeva per la coda quel gatto selvatico morto che adesso pareva un gatto e basta. Corsi dalla generalessa sul terrazzo. «Signora madre!» gridai. «È ferito!» «Vas? Ferito come?» E già puntava il cannocchiale. «Ferito che sembra un ferito!» dissi io. E la generalessa pareva trovare pertinente la mia definizione, perché tenendogli dietro col cannocchiale, mentre saltava più svelto che mai, disse: «Das stimmt!» Subito si diede da fare a preparare garza e cerotti e balsami, come dovesse rifornire l'ambulanza d'un battaglione, e diede tutto a me, che glielo portassi, senza che nemmeno la sfiorasse la speranza che lui, dovendosi far medicare, si decidesse a ritornare a casa. Io, col pacco delle bende, corsi nel parco e mi misi ad aspettarlo sull'ultimo gelso vicino al muro dei Dondariva, perché lui era già scomparso giù per la Magnolia. Nel giardino di Dondariva Cosimo apparve trionfante, con la bestia uccisa in mano. E cosa vide nello spiazzo davanti alla villa? Una carrozza pronta per partire, con i servi che caricavano i bagagli sull'imperiale, e in mezzo a uno stolo di governanti e zie nere severissime Viola vestita da viaggio, che abbracciava il marchese e la marchesa. «Viola!» gridò e alzò il gatto per la coda. «Dove vai?» Tutta la gente attorno alla carrozza alzò lo sguardo sui rami. E al vederlo, lacero, sanguinante, con quell'aria di pazzo, con quella bestia morta in mano, ebbero un moto di raccapriccio. «De nouveau ici, et arrangé de quelle façon?» E come prese da una furia, tutte le zie spingevano la bambina verso la carrozza. Viola si voltò a naso in su, e con aria di dispetto, un dispetto annoiato e sussiegoso contro i parenti, che però poteva essere anche contro Cosimo, scandì, certo rispondendo alla domanda di lui: «Mi mandano in collegio!» E si voltò per salire in carrozza. Non l'aveva degnato d'uno sguardo, né lui né la sua caccia. Già era chiuso lo sportello, il cocchiere era in serpa, e Cosimo, che ancora non poteva ammettere quella partenza, cercò d'attrarre l'attenzione di lei, di farle capire che dedicava a lei quella cruenta vittoria, ma non seppe spiegarsi altrimenti che gridandole «Io ho vinto un gatto!». La frusta diede uno schiocco, la carrozza tra lo sventolio dei fazzoletti delle zie partì, e dallo sportello si udì un «Ma bravo!» di Viola. Non si capì se d'entusiasmo o di dileggio. Questo fu il loro addio. E in Cosimo la tensione, il dolore dei graffi, la delusione di non aver gloria della sua impresa, la disperazione di quell'improvvisa separazione, tutto si ingorgò e diruppe in un pianto feroce, pieno d'urla e di strida e rametti strappati. «Hors d'ici! Hors d'ici, polisson sauvage! Hors de notre jardin!» inveivano le zie, e tutti i famigli di Dondariva accorrevano con lunghi bastoni o tirando sassi per cacciarlo. Cosimo scagliò il gatto morto in faccia che gli venne sotto, singhiozzando e urlando. I servi raccattarono la bestia per la coda e la buttarono in un letamaio. Quando seppi che la nostra vicina era partita, per un poco sperai che Cosimo sarebbe sceso. Non so perché, collegavo con lei o anche con lei la decisione di mio fratello di restare sugli alberi. Invece non se ne parlò nemmeno. Salì io a portargli bende e cerotti e si medicò da sé i graffi del viso e delle braccia. Poi volle una lenza con un uncino. Se ne servì per ripescare dall'alto d'un ulivo che sporgeva sul letamaio dei Dondariva il gatto morto. Lo scuoiò, conciò alla meglio il pelo e se ne fece un berretto. Fu il primo dei berretti di pelo che gli vedemmo portare per tutta la vita. Manuela Mandracchia ha letto Il barone rampante di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Carlo Cursi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.